non è solo affetti stabili con Radio 24, ma proprio un legame di sangue. Buona trasmissione, buona giornata. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Abbracciami, c'è poco da capire, solo abbracciami, un'ora può valere molto. Abbracciami, piano, piano con le parole, perché non è il momento, non è il momento. Abbracciami, ma a distanza, verrebbe da dire, perché ovviamente siamo seri, ci sono delle limitazioni, ci sono ancora delle necessità di stare distanti per contenere il coronavirus. E poi ci sono anche delle sanzioni, come è capitato a un ventenne pavese che ha abbracciato la fidanzata per strada e si è trovato però multato. 400 euro di multa solo a lui, non, pare non per galanteria, cioè insomma è stata un po' esentata dalla multa la ragazza, è una cosa che si fa anche per appunto un riguardo, no, è solo perché la ragazza non sarebbe stata colta di sorpresa da questa effusione, da questa manifestazione d'affetto del fidanzato. Allora parleremo tra poco, torneremo a parlare di queste limitazioni, di questi vincoli, delle multe, con una voce per così dire ormai ben nota al pubblico di Due di Denari, che è quella dell'avvocato Vallefuoco, che ci aiuterà appunto a capire come bisogna comportarsi. Ormai abbiamo capito, dobbiamo guardare anche le ordinanze dei sindaci, non più quindi solo i decreti legge, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le ordinanze delle regioni, ma attenzione anche le ordinanze dei sindaci. Ad esempio qui a Milano, come avrete letto, come avrete sentito, da questa sera dalle 19 scatta il divieto dell'asporto, quindi si potrà continuare ad andare in locali, ma bisognerà trovare posto per sedersi. Quindi via via, insomma, le limitazioni si complicano, bisogna conoscere tutta una serie di norme, altrimenti si rischia appunto come la sanzione, come è accaduto a questo ventenne espansivo pavese che voleva salutare la fidanzata, ma non erano conviventi e quindi non era permesso. Vedo anche un Lauricella perplesso dietro l'occhiale, un solido Carmelo Lauricella come d'abitudine qui in regia, dietro di lui effervescente, spumeggiante Claudia Schiattone e poi tutto governa e tutto vede sempre Marco Lombardo. Non c'è quest'oggi con me e non ci sarà per un paio di giorni Deborah Rosciani, che ha preso qualche giorno di vacanza, così ci alterniamo un pochino alla conduzione, però naturalmente sempre nel rispetto del distanziamento e dei limiti. Nella seconda parte della trasmissione, tema ghiotto, parliamo di imposte, parliamo di tributi locali, parliamo di IMU, parliamo di TARI, parliamo di suolo pubblico, insomma tutta una serie di disposizioni che sono arrivate con il decreto rilancio, per lo più il decreto legge rilancio, e andremo ad esaminarle con un'altra voce ben nota e nome ben noto anche lui al pubblico di Due di Denari e ai lettori del Sole 24 Ore, perché saremo al telefono con Luigi Lovecchio, dottore commercialista e spesso appunto chiamato a rispondere ai nostri dubbi sui tributi locali. Tutto questo però, tutto questo, caro Carmelo, che mi fissi preoccupato dall'altra parte del vetro, tutto questo lo faremo dopo avere dato un minimo di spazio al giornale radio del risparmio, perché ho qualche notiziuola sparsa che vorrei segnalare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Prego. Con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani. Lo so, sono in conflitto di interessi perché uso i Chapter 11 e la mia stessa voce per lanciare la prima notizia del giornale radio del risparmio, però Allora, il serpente corallo, che posso già anticiparvi anche quest'estate, questo mese di agosto, tornerà a farvi compagnia il sabato su Radio 24, quindi parleremo di truffe. E poteva il coronavirus non invogliare il serpente corallo, un po' l'animale simbolo delle truffe che abbiamo scelto noi, Chapter 11, poteva non agitarsi, non inventarsi qualcosa nel periodo del coronavirus? Ma certo che no. E allora, da serpente corallo a serpente corona, il passo è breve: il braccialetto anti-Covid-19. L'antitrust ha detto piantatela di fare promozione ingannevole dicendo che c'è un braccialetto che agirebbe emettendo segnali elettromagnetici opposti a quelli emessi dal Covid-19. È una truffa, non funziona, non c'è nessuna validità scientifica a tutto questo. Allora, uno è libero di comprarsi il braccialetto che vuole, ci mancherebbe altro, ognuno è libero di promuovere il braccialetto che vuole, però raccontare delle fregnacce, scusate il termine poco tecnico, non è cosa da fare, e l'antitrust appunto è intervenuta. Attenzione a questi tipi di rimedi miracolosi che nulla hanno di scientifico. Questo è il caso del braccialetto, ma devo dire, di serpenti corallo non si fa fatica a trovarne in questa fase di Covid. Oh, non è invece un serpente corallo il prestito che la Germania è intenzionata a fare per gli studenti stranieri che sono là a studiare, studiano nelle università appunto tedesche. Che succede? Allora, a causa del Covid molti studenti stranieri che sono in Germania a studiare hanno perduto il posto di lavoro con il quale si mantenevano gli studi. Allora, il ministro tedesco per l'educazione e la ricerca, Anja Karliczek, ha annunciato la creazione di un programma di prestiti senza interessi, proprio per assicurare il proseguimento del percorso di formazione degli studenti. Adesso, a beneficio di chi volesse seguire questa trasmissione anche da video, e quindi ad esempio dalla nostra pagina Facebook, che è sempre attiva, pagina di 2 di Denari, oppure anche su YouTube con il canale di Radio 24, voglio mostrare in anteprima mondiale quello che allegheremo domani al Sole 24 Ore, perché sono pagine e pagine, vedo già lo sguardo ghiotto e ingolosito di Carmelo Lauricella dall'altra parte, sono pagine e pagine dedicate al bonus 110% e ai vari sconti per i lavori in casa e per la casa. Ne abbiamo parlato qui a Due di Denari nei giorni scorsi, trovate la nostra puntata di pochissimi giorni fa sul sito di Radio 24, www.radio24.it, abbiamo avuto due ospiti che hanno spiegato i capisaldi di questo tipo di sconto. Domani un allegato al Sole 24 Ore proprio per entrare nei dettagli di questo bonus. Decreto rilancio casa, il bonus 110%, domani in edicola con il Sole 24 Ore. E visto che stiamo parlando di case, vi segnalo, stiamo ancora aspettando una norma per regolamentare le assemblee nei condomini, ne parla anche oggi Saverio Fossati sul Sole 24 Ore. Ci sono in pratica due orientamenti: o andare per una proroga e quindi consentire di spostare in là le assemblee, oppure invece rendere espressamente possibili le teleassemblee. Questa è una possibilità, come ricorda anche Saverio Fossati sul Sole 24 Ore di oggi, che già esiste, nel senso che non è vietata, però il problema è la regolarità nella convocazione e poi nella partecipazione e anche nell'approvazione delle delibere, insomma tutti aspetti che finora hanno di fatto condizionato e impedito la via alle teleassemblee e quindi anche le decisioni condominiali per quanto riguarda i lavori, ad esempio, collettivi sulle parti comuni. Allora, ci sarebbe un problema di errore di stampa, uso il condizionale, perché viene segnalato da Il Salvagente un errore nel decreto rilancio che ritarda l'erogazione dei nuovi 600 euro a 500.000 di lavoratori autonomi. Cioè, c'è un punto del decreto legge dove si parla di non cumulabilità tra varie provvidenze disposte appunto da questo decreto legge rilancio, in cui si dice che sostanzialmente non sarebbero cumulabili, cioè non sarebbero erogabili per i liberi professionisti le nuove erogazioni dei 600 euro. Allora la cosa naturalmente è in contrasto con lo stesso decreto legge che pochi articoli più in là dice invece l'esatto contrario, però il sindacato Cronisti Romani ha segnalato questa correzione necessaria, perché altrimenti si rischia che poi sul bisticcio tra un articolo e l'altro dello stesso provvedimento le erogazioni si blocchino. Speriamo che questo sia chiarito rapidamente, evitando così tutte le possibili burocrazie maligne che potrebbero fermare, bloccare questa iniziativa. Allora, stiamo per entrare nella prima parte, nel primo tema della trasmissione. Come vi ho detto, è quello relativo agli spostamenti, agli assembramenti. Vi ricordo intanto i numeri per entrare in contatto con 2D Denari: 800240024, e per intervenire in diretta. Se volete mandarci messaggi, SMS, WhatsApp: 349-238-6666. Parleremo ora di assembramenti, più tardi di imposte locali, IMU, TARI e compagnia cantante. Cantante si fa per dire. Ascoltiamo intanto che cosa ci hanno detto a Dillo a 2D Denari. Dillo a 2D Denari. Gli studenti che vivono fuori sede e che magari non hanno la residenza in una città sopra quel numero di abitanti necessario per il bonus, ma che vivono normalmente in città come Milano o Roma, come fanno? Non hanno diritto al bonus, eppure sono quelli che usufruiscono di più di mezzi di trasporto pubblici che da ottobre saranno a scartamento ridotto. Effettivamente questa limitazione per il numero di abitanti potrebbe creare più di un imbarazzo. Vedremo se nel corso della conversione, nella discussione in Parlamento, verrà modificata questa erogazione. C'è ovviamente un problema di risorse, di fondi disponibili. Vediamo se il Parlamento raccoglierà questa segnalazione della nostra ascoltatrice, e che anche appunto abbiamo visto e sentito provenire da più parti. Andiamo al primo tema. Una alla volta, per carità. Figaro, son qua. Ehi, Figaro, son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua. Beh, devo dire, quest'area del Barbiere di Siviglia la ascolteremo per molto più che mezzo minuto, ma dobbiamo fare spazio all'avvocato Valerio Vallefuoco. Bentornato a 2D Denari, avvocato Vallefuoco, che abbiamo, non abbiamo in collegamento, forse sì, forse no. Ah, eccolo. Allora, vogliamo parlare ovviamente uno alla volta, per carità, perché così canta il barbiere di Siviglia, e uno alla volta dobbiamo entrare, ad esempio, nei negozi dei barbieri, nei parrucchieri, e adesso vedremo anche se quale appunto è il comportamento che dobbiamo tenere in generale anche per strada, perché c'è sempre, lo ricordiamo, il divieto di assembramento. Allora, avvocato Vallefuoco, vediamo se abbiamo ripristinato il collegamento, sentiamo. Io ci sono. Ah, magnifico. Allora, avvocato, dove vogliamo partire? La notizia del giorno sarebbero gli assistenti civici. Beh, non abbiamo capito, allora oggi, anche questa mattina nel corso delle nostre trasmissioni, è intervenuto il sottosegretario a spiegare, Achille Variati, sottosegretario degli interni, a spiegare: ma no, ma non sono questioni di controllo di tipo di forza pubblica, ecco, per così dire. Però insomma c'è un pochino di preoccupazione. Che succede? Ci saranno gli ausiliari dell'assembramento come gli ausiliari della sosta? Ci spieghi a che punto siamo? Allora, intanto buongiorno alla radioascoltatrice e radioascoltatori, buongiorno Mauro. Io su questa questione dei famosi 60.000 ausiliari evidentemente non posso che fare delle riflessioni tecnico-giuridiche. Tutta questa, diciamo, questo sistema si basa su sistemi connessi alle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla ordinanza del capo dipartimento della protezione civile, e sembrerebbe già appunto girare un testo che fa riferimento a un'ordinanza che emette il capo del dipartimento della protezione civile Borrelli in ordine a una richiesta che gli avrebbero fatto l'associazione dei comuni dell'ANCI, per cui in realtà ci sarebbe già la predisposizione di questa bozza di ordinanza, dove vengono previsti 60.000 addetti e 60.000 unità, i quali dovrebbero prestare il loro supporto gratuito fino a un massimo di 16 ore settimanali sulla base delle indicazioni fornite da ciascun comune, quindi dovrebbero coadiuvare il comune per diciamo, evitare che ci siano i famosi divieti d'assembramento o per il rispetto, diciamo, delle norme sulla distanziamento sociale. Però ecco, tutto questo non è ancora operativo, non è ancora vigente. Assolutamente no, è una proposta e di fatto già sta scatenando un po' di polemiche, perché già diciamo, dopo questi mesi forse i cittadini sono un pochino ormai hanno la pazienza, diciamo, ridotta ai minimi termini per i controlli e le sanzioni a cui sono stati sottoposti. Poi inserire altri 60.000 soggetti che poi dovrebbero svolgere a titolo gratuito, ma poi possono essere anche soggetti pescati tra coloro che hanno il reddito di cittadinanza, e insomma inizia a essere un pochino un controllo un po' troppo preponderante. Poi tra l'altro con questo divieto d'assembramento, se magari ci spiegano anche tecnicamente che cos'è un assembramento, perché sennò si lascia solo, no, all'interpretazione, perché teoricamente l'assembramento è un gruppo di persone che insieme creano un affollamento o un insieme disordinato di persone che si raducano a fare qualcosa, perché assembrare vuol dire adunare e affollarsi. Ora già sembrerebbe da capire se siamo in due, un assembramento o no. Io credo di capire, avvocato Vallefuoco, se ci incontrassimo, adesso non possiamo, siamo in due regioni diverse e quindi ci sono ancora le limitazioni agli spostamenti tra regioni. Solo per lavoro. Esatto, dovremmo avere un motivo forte di lavoro, insomma. Se ci incontrassimo, noi dovremmo comunque restare a distanza di almeno un metro e dovremmo comunque indossare la mascherina, è corretto? Cioè, questi limiti non sono mai venuti meno, qualsiasi cosa abbiano disposto le ordinanze locali, delle regioni o dei comuni. Assolutamente, questi sono ancora in vigore e c'è una sanzione amministrativa che se non si rispetta questo divieto si è puniti da 400 euro fino a 1000 euro. E se per caso questo, diciamo, divieto di spostamento o viene fatto attraverso la macchina, addirittura c'è una sanzione che è aumentata fino ad un terzo. Quindi questo ad oggi è una sanzione che può essere irrogata dagli organi accertatori della polizia, ma anche dei vigili urbani con qualche polemica e chiaramente da tutte le forze di polizia, e segue, diciamo, il normale iter amministrativo delle sanzioni amministrative. Vorrei fare un altro passaggio. Allora, poi c'è sempre invece il profilo penale per chi fosse soggetto a quarantena perché è positivo al coronavirus, sì, e infrange l'isolamento, insomma. Sì, le forze di polizia spesso fermano per fare questi controlli e per vedere se nel loro database il nominativo risulta tra i soggetti che l'ASL gli ha comunicato come soggetti all'obbligo di quarantena, ed in particolare soggetti che, se sono positivi al virus, se escono rischiano l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e l'ammenda da 500 a 5.000 euro. Se non addirittura, diciamo, imputazioni più gravi come quella del contagio colposo o contagio doloso, quindi insomma, dove addirittura le pene arrivano quasi fino all'ergastolo, quindi insomma su questo bisogna avere un'attenzione maggiore. E però per il resto, diciamo, l'attività è proprio sanzionatoria amministrativa tipica, per cui in realtà è molto lasciata all'organo accertatore. Anche questo divieto d'assembramento, molti per esempio esercenti dicono: ma io all'interno del mio locale ovviamente posso fare e devo far rispettare determinate regole per esercitare, ma al di fuori io come faccio a evitare che i miei clienti poi magari stazionano? Io non ho questa situazione in mano. Eppure la norma è abbastanza vaga, per cui molti esercenti si sono trovati ad avere delle sanzioni che addirittura prevedono anche la chiusura fino a 5 giorni dell'attività, se non addirittura il ritiro della licenza in caso di reiterazione. Quindi la chiarezza dovrebbe, diciamo, regnare sovrana quando siamo in termini e in tema sanzionatorio, cosa che invece vedo che si fa sempre più rara. Ecco perché allora c'è un po' questo tema della responsabilità. Lei ricordava responsabilità dell'esercente, che però dice sì, ma io poi quello che succede nella parte davanti al mio locale posso vigilarci un po', posso consigliare, ma certo non posso intervenire. E anche un altro aspetto, la, per così dire, discrezionalità da parte dell'organo accertatore, cioè a volte più il controllo viene fatto per capire che non sia un soggetto che sta infrangendo la quarantena, piuttosto che per evitare qualche così distanza troppo ravvicinata, mi sembra di capire, sì, dove, sì, dove sì, non diciamo si fa che... la multa, ma magari si dice soltanto di allontanarsi gli uni dagli altri. Sì, questo accade spesso anche nelle piazze di Roma, dove insomma adesso chiaramente, essendoci la possibilità di fare attività motoria, molte persone passeggiano, comunque le persone si recano anche agli esercizi commerciali che adesso sono aperti, e quindi è evidente che si possono incontrare e quindi magari poter creare questi assembramenti. Però ecco, in questo caso le forze dell'ordine intervengono chiedendo appunto alle persone di rispettare il distanziamento sociale. Però in alcuni altri casi, invece di intervenire proprio sul, diciamo, preventivamente o dare delle indicazioni, diciamo che applicano in maniera estremamente rigorosa la norma e quindi fioccano i verbali delle famose 400 euro. Sì, come è accaduto appunto al giovane di Pavia che ha baciato la fidanzata, ma è stato un bacio che gli è costato 400 euro. E comunque vabbè. O anche al barista di Padova che per aprire ha aperto al pubblico finalmente il suo bar e diciamo insieme con i suoi dipendenti si è fatto una foto su Facebook con la mascherina, con i guanti, erano tutti uniti, e quindi è stato oggetto di una sanzione amministrativa perché dice non mantieni il distanziamento sociale. Ma se uno volesse opporsi a queste multe, perché appunto come il ragazzo di Pavia dice, beh, insomma, in fondo io stavo baciando la mia fidanzata, anche è vero, non sono conviventi, è stato spiegato, ma può farlo, può opporsi? Sì, assolutamente sì. Allora l'opposizione segue la regola generale delle sanzioni amministrative, ed in particolare sulla falsariga un po' delle sanzioni amministrative, quelle che vengono chiamate le multe stradali. C'è l'alternatività di pagare in forma ridotta e quindi un terzo della sanzione e qualora non si volesse impugnare, ovvero la possibilità di fare una memoria al prefetto con la richiesta di essere, col diritto di essere sentiti, la cosiddetta istanza di audizione, entro 30 giorni. In caso contrario, e quindi c'è la possibilità a causa del rigetto di questa domanda da parte del prefetto, c'è la possibilità di impugnare tutto al giudice di pace. Questo per quanto riguarda le sanzioni per i cittadini. Per quanto riguarda invece per gli esercenti, quindi tutte quelle che sono sanzioni relative ai locali pubblici, ad esempio, negozi, sì, pubblici, che prevedono anche la sanzione accessoria della chiusura, anche temporanea, invece è competente il Tribunale Civile. E quindi bisogna presentare la propria istanza. Bisogna presentare ricorso. Diciamo che qui i motivi sono diversi, perché insomma la polemica c'è stata su questo sistema sanzionatorio, non a caso ben due presidenti della Corte Costituzionale, ex presidente della Corte Costituzionale, hanno dubitato sulla legittimità dell'intero sistema, che insomma si è basato spesso su decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e non su leggi provvedimenti legislativi. Certo. Quindi, insomma, già questo è tutto un tema da analizzare. Poi purtroppo, come abbiamo visto, adesso non solo ci dobbiamo preoccupare dei decreti del Presidente del Consiglio, ma anche delle ordinanze della Protezione Civile, ma anche delle ordinanze regionali e ultimamente anche delle ordinanze sindacali. Quindi insomma Quindi, diciamo, dovremmo essere tutti i giorni sui siti istituzionali e sui testi normativi, l'estratto delle delibere approvate. Allora, avvocato, lei non lasci il paese, mi raccomando, resti a disposizione. Grazie all'avvocato Valerio Vallefuoco. Torneremo sicuramente a interpellarla per gli ulteriori sviluppi di queste normative. E adesso le borse. Ma per favore, vabbè, comunque, arrivederci. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta. Ciao, Vincenzo da Palermo, I love my radio. Ciao, sono Riccardo da Genova, I love my radio. Ciao, sono Corrado da Roma, I love my radio. Gli italiani amano la radio. Il 71% la ascolta anche da casa. L'ascolto da supporti digitali è aumentato del 24% e per il 59% degli italiani la radio è relax e allegria. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani, anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. Due di denari. Siamo arrivati all'assurdo. Siamo arrivati all'assurdo. Perché non vanno a controllare dove spacciano la droga invece di andare a vedere chi si abbraccia? Ma smettiamola, buffoni. Mi aspetto che la ragazza colta alla sprovvista abbia poi denunciato per molestia il ragazzo, perché se no lo voleva anche lei. Se non lo voleva, lo denuncia per molestia, e se lo voleva deve pagare anche lei, ragazzi. Bisogna farli chiudere in casa, per la gente che non capisce il distanziamento, ritirargli la patente e gli si fanno due righe che per 3 mesi non si muovono di casa. Devo dire, una ottima selezione dei vostri messaggi arrivati via WhatsApp, messaggi vocali al 349-238-6666. Un po' sono le sensazioni che tutti proviamo rispetto a queste limitazioni, per cui da una parte l'insofferenza, però dall'altra anche il comprendere che è uno stato di necessità. Ci ricordiamo anche troppo bene le settimane in cui proprio non si poteva uscire e tutte le attività aperte al pubblico sono rimaste chiuse, quindi insomma ambivalenza, sentimenti ambivalenti, ed è quello che appunto rappresentano anche questi messaggi WhatsApp selezionati come sempre dagli ottimi Marco Lombardo e oggi aiutato da Claudia Schiattone. Parliamo di imposte locali adesso, lo facciamo con Luigi Lovecchio, dottore commercialista, esperto del Sole 24 Ore, voce nota Due Dinari, proprio quando parliamo di queste imposte locali. Bentornato dottor Lovecchio. Bentrovati, grazie. Allora, ci dà qualche buona notizia, perché allora, se ho capito bene, ma non sono sicuro perché il decreto legge rilancio non è la cosa più leggibile del mondo, c'è qualche sconto di qualche imposta locale nascosto lì dentro nei suoi 200 e non so più quanti articoli. Mi fa un riassunto e lo fa anche a beneficio dei nostri ascoltatori? Sì, certamente. Allora, diciamo che gli abbattimenti previsti in materia di tributi locali sono di due ordini: quelli contenuti nel decreto rilancio, come si ricordava prima, e riguardano l'IMU e la tassa di occupazione del suolo pubblico, e poi c'è un piccolo sconto contenuto invece in una determinazione della ARERA, l'autorità nazionale che vigila sull'applicazione della tariffa rifiuti, quindi è una determinazione che impatta sul prelievo sui rifiuti. Nel decreto rilancio c'è l'esenzione dal pagamento della prima rata IMU con riferimento a determinati immobili che sono poi quelli adibiti ad attività che hanno risentito maggiormente della crisi da Covid-19, cioè si fa riferimento, c'è un elenco analitico nell'articolo 177 del decreto legge rilancio e si fa riferimento per esempio agli alberghi, agli agriturismi, villaggi turistici, stabilimenti balneari, eccetera eccetera. Ecco, questo tipo di immobili sono del tutto esentati dal pagamento della prima rata IMU in scadenza al 16 di giugno, poi magari diciamo qualcosa sul differimento delle scadenze. Poi sempre nel decreto rilancio è contenuta un'altra norma che esenta dalla tassa di occupazione di suoli ed aree pubbliche i pubblici, le occupazioni realizzate dai pubblici esercizi nel periodo che va dal 1° maggio al 31 di ottobre. E questo diciamo chiude il novero delle indicazioni che sta nel decreto rilancio. Preciso un'ulteriore cosa: si è fatta la scelta di non rinviare per tutti i comuni d'Italia il pagamento della prima rata dell'IMU, perché sarebbe costato molto da parte dello Stato garantire ai comuni la liquidità necessaria per far fronte a questo differimento di risorse, lasciando però la palla in mano ai comuni. I comuni possono con regolamento differire i termini di pagamento sulla base di valutazioni che ogni comune farà autonomamente. Quindi, da ultimo, aspetti, scusi dottor Lovecchio, perché volevo fermarmi un secondo sull'IMU, che prego. È un'imposta sempre molto popolare, per così dire, molto richiesta. L'esenzione stabilita dal decreto legge rilancio riguarda solo alcune attività, sono sostanzialmente attività alberghiere, quelle che non hanno potuto lavorare nel periodo del blocco, del lockdown. Non riguarda i possessori delle seconde case o delle prime case se di lusso, perché invece poi l'IMU continua a non colpire la prima casa, come da ormai diversi anni a questa parte. Sì, esatto, cioè, i proprietari delle seconde case continueranno a versare l'IMU, come pure i proprietari delle case di lusso. Invece c'è un'elencazione analitica e puntuale, che non mi sembra il caso di rifare adesso in radio, basta che uno va a vedere l'articolo 177 del decreto rilancio, cioè il decreto 34 del 2020, c'è un'elencazione analitica di immobili che sono esenti dalla prima rata perché sono adibiti a delle attività che sono tra quelle più colpite dall'emergenza del coronavirus. Benissimo. Ecco, invece l'ho interrotta mentre lei ci stava spiegando, credo, la TARI, cioè la tassa dei rifiuti, per la quale c'è una piccola riduzione che non deriva dal decreto legge 34, ma invece da altra autorità. Sì, esatto. C'è una determinazione di ARERA. ARERA ha il compito di stabilire i criteri con cui i comuni devono costruire il prelievo sui rifiuti, quindi la tassa rifiuti, la tariffa rifiuti e quant'altro, e questa determinazione, che dovrebbe essere recepita da tutti i comuni d'Italia, stabilisce che le attività che sono rimaste chiuse durante il periodo del lockdown devono avere uno sconto sulla parte variabile della tariffa. Vi ricordo che la tassa rifiuti è composta da una quota fissa che è rappresentativa dei costi generali del servizio e una quota variabile che invece è rappresentativa dei rifiuti medi conferiti da ciascuna attività al servizio pubblico. Bene, questa quota variabile, rappresentativa, ripeto, della media dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, deve essere azzerata per il numero di giorni di durata della chiusura da lockdown. Questo è il contenuto, il senso, il contenuto di questa determinazione di ARERA. Che però riguarda appunto le attività di vendita, di rapporto con il pubblico sostanzialmente, quindi non noi privati cittadini, per così dire. No, noi privati cittadini no, anzi diciamo da certi punti di vista è possibile che noi subiamo degli aggravi, perché quello che non pagano queste attività verrà caricato, le attività che sono state chiuse e che quindi fruiranno di questo sconto, verrà caricato da parte degli altri soggetti che pagano invece la tassa rifiuti. Questo per il fatto che in realtà lo sconto non è direttamente proporzionale ai minori costi che ci sono stati con la raccolta, e quindi diciamo a fronte di un costo complessivo del servizio che non è diminuito durante il periodo del lockdown, ci sarà un ribilanciamento dei pesi tra utenze domestiche e utenze non domestiche, e in parte a svantaggio delle utenze domestiche e delle utenze competenze non domestiche che non sono state chiuse durante il periodo del lockdown. Quindi ci faremo, ci faremo carico, insomma, di sostenere questo sconto per chi ha subito più direttamente il lockdown. La fermo un istante perché sentiamo le informazioni sul traffico, poi torniamo subito. Molti chiedono, ma io come faccio a sapere se devo pagare l'IMU o no? Ve lo diciamo dopo il traffico. Di denari. Torniamo a parlare di imposte, di tributi locali con Luigi Lovecchio, dottore commercialista, esperto del Sole 24 Ore, voce nota agli ascoltatori di Due di Denari. Allora, abbiamo capito quali sono gli sconti e che platea interessano per quanto riguarda il decreto legge rilancio, il decreto legge 34. Per lo sconto IMU, il riferimento per le attività che non sono chiamate a versare la prima rata sta all'articolo 177 del decreto legge rilancio, che nel gergo si chiama decreto legge numero 34. Dottor Lovecchio, però ovviamente come può immaginare, molti chiedono, sì, ma io che invece non sono compreso in queste attività, ho una seconda casa, che devo fare? Dove devo scoprire se il comune ha deciso di chiedermi o no l'IMU? Come faccio? Allora, premesso che è difficile che i comuni decidano di abbattere totalmente l'imposta, considerato che in tutta questa vicenda ovviamente anche i comuni sono in gravi difficoltà economiche perché hanno sospeso una serie di entrate, ma basi immaginari, servizi a domanda individuale, per esempio il trasporto pubblico, oppure anche le strisce blu, sono tutte entrate che sono venute meno ai comuni. Il fatto che sia bloccata l'attività di accertamento e riscossione coattiva, cioè c'è una situazione generale in Italia che colpisce da un lato, diciamo, i soggetti passivi, dall'altro gli enti impositori. Quello che potrebbero decidere i comuni, piuttosto verosimilmente, non è tanto un azzeramento quanto un differimento del pagamento. Però non c'è altra scelta se non controllare il sito internet del comune, cioè non c'è una strada più veloce di questa e quindi sperare che ci sia pubblicato qualcosa. Dico anche che siccome i tempi stringono, perché siamo praticamente alla fine di maggio, teoricamente il versamento dovrebbe essere fatto il 16 di giugno. Esatto, il martedì 16, giusto, e questa è la scadenza. Esatto, esattamente. Allora, in molte realtà comunali si sta facendo questa valutazione, cioè si sta dicendo lasciamo il termine del 16 di giugno, però scriviamo in un regolamento che i versamenti che arrivano, per esempio, qui mi invento completamente le scadenze, entro il 31 di luglio, sono versamenti che non possono essere sanzionati. È una sorta di causa di esimente, cioè sì. Si dice la scadenza è quella, però se tu fai tardi non ti preoccupare, perché se versi entro luglio va bene lo stesso. Ecco, sì, sì. Precisiamo caso, che il dottor Lovecchio ha fatto un'ipotesi assolutamente così di fantasia, non è una data, è un'ipotesi che qualche comune potrebbe fare, cioè devi pagare entro il 16 giugno, però se non ce la fai ti posso dare anche un'altra data. Questo è il senso dell'esempio, ho compreso bene, dottor Lovecchio? Sì, sì, sì, esattamente, esattamente. Siccome non c'è scritto niente nelle norme di legge, come ho detto prima, è del tutto evidente che la palla e il pallino è rimesso al singolo comune, ed ecco perché mi sono totalmente inventato la data del 31 di luglio, perché non esiste, non c'è scritto niente da nessuna parte. E quindi questo in qualche modo giustificherebbe anche un intervento a posteriori da parte del comune, quindi come dire, chi può versi, dopodiché insomma sappiate che io tollererò questo tipo di ritardo. Magari quello che si potrà fare, anche per ragioni come dire di correttezza nei confronti della collettività, e adottare delle delibere magari di giunta che annuncino, perché questa materia ahimè è riservata al Consiglio Comunale, che significa che ha delle procedure più complicate, un po' più lunghe, che annuncino che il Consiglio Comunale verosimilmente delibererà questa soglia di tolleranza, così diciamo ognuno si può regolare su quello che deve pagare, quello che deve mettere da parte. E comunque insomma è una situazione indubbiamente piena di incertezze. E infatti è quello che ci stanno segnalando anche diversi ascoltatori ai nostri messaggi al numero verde. E a proposito di numero verde, ci ha chiamato Oriana, tra gli altri, Oriana da Udine, che aveva un quesito. Buongiorno Oriana. Buongiorno, riguarda proprio le seconde case, non inteso come casa a disposizione, ma come casa che si dà in affitto turistico. E sapendo che l'estate quest'anno sarà molto a rischio, mi aiuta ben poco il ritardo di un IMU che ammonta a un 10,6 per mille. Quindi la rata non è da poco, il ritardo non mi aiuta assolutamente niente se io dopo vado a prendere se non un terzo di quello che prendevo regolarmente. Non abbiamo nessuna ipotesi a questo momento. Cioè, ma lei domanda è, cioè lei chiede conferma che non ci siano sconti per chi casa in affitto. Ci sono sconti perché di questa categoria non è mai stato parlato. Io sono privato, quindi persona fisica che paga le tasse, ma non c'è stata menzione di questa parte di popolazione da nessuna parte. Lei dà in affitto la sua casa per le vacanze, la sua seconda casa ovviamente, non quella dove abita, e vuole sapere se è previsto uno sconto, ma a quanto le risulta non è previsto. Quindi chiediamo conferma al dottor Lovecchio, il privato che appunto fa questa attività, non ha alcun tipo di sollievo IMU. In realtà nell'articolo 170, questo famoso articolo 177, si parla degli affittacamere per brevi soggiorni e delle case e appartamenti per vacanze, a condizioni che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. E io credo che appartamenti per vacanze debba essere in qualche modo una nozione piuttosto ampia. Si tratterà ovviamente di dimostrare che quello è un appartamento per vacanza, però io credo che per esempio se la signora è presente su un sito internet, faccio così un ragionamento, con cui pubblicizza il fatto che quella è una casa che è appartamento per vacanza, perché evidentemente il problema è quello di prevenire delle manovre elusive per non pagare l'IMU sulla seconda casa che invece io tengo a mia disposizione, perché quella invece non beneficerebbe, non avrebbe diritto ad alcuno sconto. Ma se dovesse risultare che quello è un appartamento per vacanza, io lo dimostro con l'iscrizione ad un sito internet, col fatto che magari ho fatto delle convenzioni con Airbnb o quant'altro, e quella è una casa e appartamenti per vacanza. L'articolo 177 prevede l'esenzione della prima rata, quindi ecco, c'è una possibilità, anche il bed and breakfast per esempio, è citato anche il bed and breakfast, quindi, anche quello è esente dalla prima rata IMU. Ad esempio se uno avesse regolarmente affittato questa sua seconda casa e ha i contratti a dimostrarlo, i contratti degli anni precedenti, ovviamente regolarmente depositati eccetera eccetera, non andiamo adesso a esaminare il tema del sommerso in questo ambito, ma questo potrebbe essere ritenuto motivo sufficiente per dire questa è una casa effettivamente utilizzata per darla in locazione per le vacanze. Sì, sì, esatto, sì. Quella è una questione di prova, e quindi si tratta di dimostrare che quella è un appartamento per vacanza, scritto da nessuna parte che la gestione di questa attività deve essere svolta con forma imprenditoriale, perché questo non è scritto, si dice semplicemente che i proprietari siano anche gestori delle attività, ma che sia una forma imprenditoriale o una forma, come dire, di attività occasionale, per intenderci, non è previsto, ecco. Quindi queste sono delle possibilità, che delle fattispecie che possono essere esentate. Si tratta, ripeto, di dimostrare che quelle fattispecie lo sono state gli anni scorsi, lo sono anche quest'anno, perché per essere quest'anno ovviamente non è che ho bisogno dei contratti, ma ho bisogno della pubblicizzazione della disponibilità del bene. Quindi il fatto che io comunque sono presente, ripeto, sul sito c'è una destinazione di quel genere, in questo caso ho dimostrato che ho diritto all'esenzione da IMU. C'è un sindaco che ci scrive, dottor Lovecchio, dice: io vorrei farmi carico come comune dello sconto Tari che devo erogare, che devo concedere alle attività che sono rimaste chiuse, però mi sembrava di capire che dal discorso che abbiamo fatto prima questo non sia possibile, cioè non è possibile una compensazione all'interno dei conti del comune. Abbiamo l'ultimo minuto per rispondere. Sì, rapidissimo. effettivamente quello è uno sconto minimale deciso da ARERA, che però non incide sui poteri dei comuni. I comuni, se vogliono, possono anche incrementare quel tipo di sconto e farsene carico col bilancio comunale. Sono inoltre dell'idea che i comuni possano decidere anche una scontistica diversa e aggiuntiva rispetto a quella. Per esempio penso al bonus sociale delle utenze domestiche. Le utenze domestiche con un basso reddito o un basso valore di sé potrebbero essere alleggerite dal comune con risorse del bilancio comunale. Quindi effettivamente un po' di margine c'è. Due risposte positive, sia quindi all'ascoltatrice che ci ha chiamato in precedenza, sia a questo sindaco. È possibile, insomma, c'è una possibilità di movimento. Allora, grazie a Luigi Lovecchio per l'aiuto nel muoverci nel ginepraio delle imposte locali. Verificate sul sito del comune che cosa dispone in materia di IMU. Grazie a Carmelo Lauricella in regia, Claudia Schiattone assistente di territorio e Marco Lombardo. Torniamo domani.